Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per un'ennesima puntata di Fuori di Noi. Ai microfoni Cristian, alla regia Edi Daici, ma oggi ho una bellissima sorpresa che ci accompagnerà non soltanto per questa puntata ma anche per le prossime. Una nuova collaborazione, risalutiamo sempre la Beta che è ancora assente dai nostri studi, dai nostri microfoni, ma abbiamo adesso, ripeto, una nuova persona che vogliamo conoscere. Ciao Anna, intanto. Ciao a tutti, ciao Cristian. Anna, allora, questa è una nuova collaborazione che si sta instaurando tra l'associazione Noi e l'associazione che tu rappresenti, che è? L'Azione Cattolica, in particolare Articolazione Ragazzi. Ecco, molto bene. Anna, allora, un po' di presentazione. Quanti anni hai? So che sei anche fresca di laurea e appunto farai parte di questo programma anche perché c'è un progetto che cercheremo di concretizzare nelle prossime settimane, ma intanto una breve carta d'identità. Okay. Da dove vieni? Allora io ho 20... voglio sapere tutto di te. Ok. Ho 25 anni e vengo da Spinea, un piccolo paesino in provincia di Venezia, e faccio parte appunto della parrocchia di Santa Bertilla, frazione di Orniano. Seguo i ragazzi della CR dal 2004 e attualmente seguo la classe della seconda media. Molto bene. E voglio aggiungere io, perché prima appunto di iniziare la trasmissione mi hai detto: hai la macchina in un parcheggio a pagamento, quindi dobbiamo essere anche rapidi, perché hai parcheggiato e hai messo praticamente uno o due gettoni, quindi esatto, rischi di prendere anche una multa qui a... qui a Treviso. Bene Anna, allora racconta un pochettino, anche introduci, poi ovviamente approfondiremo anche nelle prossime puntate, qual è il progetto per cui l'Azione Cattolica, la CR e il Noi realizzerà attraverso appunto questo contenitore che è Fuori di Noi, dedicato al mondo degli oratori ma dedicato soprattutto al mondo giovanile, e i ragazzi, come l'abbiamo detto tantissime volte anche all'interno di questa trasmissione, nelle nostre parrocchie frequentano l'oratorio ma fanno anche parte, sono tesserati e diciamo intraprendono il cammino formativo formato dall'Azione Cattolica. Come li renderemo protagonisti a Fuori di Noi? Sì, allora il progetto è articolato per vari sabati a partire da febbraio e fino a maggio, quindi più o meno con la frequenza di un sabato al mese, e i ragazzi di varie parrocchie verranno qui in gruppi di 10-12 per parrocchia e registreranno il loro contributo, che avrà come tema la rubrica In oratorio si punta in alto, quindi sarà una rubrica di spiritualità e dove i ragazzi potranno lasciare un pensiero, una citazione o comunque raccontare un'attività che li ha colpiti e soprattutto li ha portati a conoscere meglio Gesù e ad incontrarlo più profondamente, e appunto per far passare il messaggio che alla CR è bello andare, soprattutto perché è un cammino formativo alla scoperta di Gesù. Ecco, questo progetto noi l'abbiamo concretizzato in parte con un certo impegno anche l'anno scorso, e proprio per, diciamo, anche la voglia e l'entusiasmo che si è anche manifestato stato nell'incontro appunto con la radio, con il mezzo diocesano, abbiamo pensato appunto di riproporlo anche quest'anno con qualche piccolo cambiamento, con qualche piccolo adattamento. Questo per rendere, penso, anche i giovani protagonisti di una realtà che è anche il mezzo diocesano, ma che è anche la propria parrocchia, ed essere, diciamo, loro stessi veicolo di informazioni e di coinvolgimento per altri ragazzi che, per esempio, non conoscono assolutamente la realtà dell'Azione Cattolica come quella dell'oratorio. Penso sia questo, diciamo, lo scopo principale. Noi andiamo in onda, Anna, tu lo sai, ma io te lo ricordo, ogni sabato appunto alle 14 e la domenica alle 12.30. Ci potete mandare anche un'email a fuoridinoi@libero.it oppure mandare un sms al 320-614-6964. Questo è un contenitore che non è esclusivo appunto dell'associazione Noi, nel senso che certo il Noi insieme con diciamo le altre realtà territoriali diocesane, Padova, Venezia, Treviso, Vicenza, Trieste, queste sono le realtà che abbiamo già incontrato. La settimana scorsa avevamo i microfoni presidente di Noi Padova, Don Gabriele Pedrina, ne avremo altri nelle prossime settimane. È una, diciamo, trasmissione dedicata dedicata proprio a quello che di bello nasce all'interno di una comunità, di una parrocchia. All'interno di una parrocchia sono tanti, diciamo, gli ambienti che sono dedicati all'oratorio, ma non sono soltanto ambienti, è uno stile. Come c'è lo stile dell'Azione Cattolica, c'è anche lo stile oratoriale. E noi crediamo appunto che insieme siano veramente la forza, la vivacità, la novità, la vita di una comunità parrocchiale. Ma adesso, Anna, tu hai già scelto la canzone, la canzone, diciamo, che è un piccolo saluto, un piccolo benvenuto che noi ti facciamo per la prima puntata in pianta stabile qui a Fuori di Noi. Anna l'hai scelta, quindi presentala tu. Quello è il titolo, sai già il titolo, sai già anche chi sono, diciamo, i cantanti protagonisti, quindi a te la parola. Imodà con Emma arriverà. E quindi ti dedichiamo questa canzone, dedichiamo tutti i ragazzi dell'Azione Cattolica diocesana. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverai, sei arrivata, cara Anna, ecco, insieme con noi Anna Zampieri della CR diocesana, che ci farà praticamente anche, ci accompagnerà anche nelle prossime puntate, nuova collaborazione concreta tra l'Azione Cattolica e noi associazione, noi appunto Treviso, per un progetto che si concretizzerà le prossime settimane, ma che già adesso si sta concretizzando con questa, diciamo, co-conduzione appunto che stiamo cercando di realizzare. Allora Anna, noi ti racconto un pochettino cosa fa noi associazione, che se la conosci bene, visto che anche nella tua realtà è presente un oratorio affiliato a noi. La realtà noi è variegata, perché in ogni zona, in ogni parrocchia, ogni ogni circolo ha un determinato programma che è variegato sia per i giovani che per gli adulti che per gli anziani, perché sai benissimo che l'oratorio è un po' diverso dai classici oratori, diciamo, chiamiamoli salesiani, che si rivolgono soprattutto alla fetta più giovane. Noi cerchiamo di creare una relazione tra generazioni, e questa relazione si può creare attraverso tante, diciamo, iniziative. Una di queste iniziative, oggi diciamo andiamo proprio al cuore della trasmissione, una di queste iniziative è il teatro, perché da diversi anni, questa è la nona edizione, un anno sì e un anno no di solito, l'associazione Noi Treviso promuove una rassegna di teatro amatoriale che si chiama proprio Oratorio Teatro, e viene svolta quasi da diversi anni grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e di alcuni, diciamo, nostri volontari del comune appunto di Scorzè, al teatro comunale Helios Aldò. Questa rassegna partirà sabato 21 gennaio, quindi appunto adesso, e terminerà domenica 18 marzo. Tanti appuntamenti, e tutti questi appuntamenti hanno una particolarità, cioè compagnie amatoriali provenienti da realtà oratoriali. E ne abbiamo una in linea, anche se è un po' in trasferta. Vediamo, Rossella, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, Rossella, allora, innanzitutto presentati un attimino. Tu vieni, appunto, tu partecipi, diciamo, a questa rassegna teatrale in rappresentanza della realtà di Gaggio di Marcon, con una compagnia... Affermativo. Adesso ti trovi molto distante da Gaggio di Marcon in vacanza, quindi ti disturbiamo, ma ti ringraziamo anche della tua disponibilità, nonostante, appunto, sei un po' lontana da noi, sempre in Italia, ma... In vacanza. Raccontaci un po' questa esperienza. Allora, Rossella, voi partecipate a questa rassegna perché ovviamente avete formato un bel gruppo di attori. Come è nata l'idea? È nata tu? Che ruolo hai all'interno di questa compagnia? Allora, posso cominciare dicendo che la compagnia teatrale di Gaggio esiste da prima che nascessi, praticamente. Io ho 25 anni ed esisto da 30 anni. E, ovviamente col passare, io sono sempre stata inserita in questo contesto perché i miei genitori hanno sempre fatto parte sia come attori sia come eventuali registi, se così ci possiamo dire. E, sì. Appunto, poi i componenti della vecchia compagnia sono un pochino alla volta invecchiati e ovviamente poi vengono anche altre problematiche, e giustamente aveva bisogno di essere svecchiata questa compagnia, e così l'anno scorso mi sono improvvisata di ripristinare il tutto ed è nata una nuova compagnia, proprio ovviamente con lo spirito anche del fare questa attività in un contesto parrocchiale, e quindi anche per riuscire a ricavare un momento di comunità e regalare anche un momento proprio per stare assieme, quindi amicizia, come anche proprio per provare, quindi si coinvolgono svariate età, perché abbiamo elementi dai 13 anni che fanno, seppur parti piccole, però visto che poteva... Avete ovviamente investito anche in queste. Beh, innanzitutto il fatto che siete riusciti a rinnovare una compagnia, diciamo, datata, con una certa esperienza e anche con una certa età, questo, diciamo, non è un'impresa, diciamo, di poco conto, perché no, è stato molto difficile, infatti, anche perché la gente sono sincera, è anche difficile che venga a inserirsi volontariamente in un contesto parrocchiale. Certo. E questo lo diciamo anche all'interno del mondo oratoriale, perché il problema principale che hanno questi oratori è che hanno tantissime belle attività, tantissime, diciamo, anche idee, però sempre sottovalutate. Però, esattamente, e poi le persone che dovrebbero essere anche coloro che in qualche maniera possono essere coinvolte, non vogliono essere coinvolte, non possono essere coinvolte, insomma si fa sempre più difficoltà. Quindi è importante, diciamo, anche la realtà teatrale, che certamente parte dalla parrocchia, ma per qualcuno può essere l'occasione anche di sviluppare quella creatività, quella fantasia che magari in altri contesti sarebbe rimarrebbe semplicemente nel cassetto. Ti chiedo, diciamo, una cosa, che è una rampa, insomma, quindi ci si prova e appunto si cerca di unire l'utile al dilettevole, per così dire. Assolutamente sì. So però che, diciamo, che la tua dall'anno scorso appunto hai preso un po' in mano questa, diciamo, questa realtà, ma mi raccontavi anche ieri, che ci siamo un po' sentiti, che non è, diciamo, la prima volta che ti cimenti nella dinamica del teatro. Tu hai una certa esperienza, no. Una certa anche passione, che possiamo sì, dire sì, anche sì. Qualcosa di più di una passione, forse. Sì, sono d'accordo, nel senso io mi sono sempre confrontata con la realtà teatrale, sono una grande cliente finale così anche della struttura teatro a livello nazionale e internazionale, sono sempre stata molto informata perché è proprio una mia passione personale. Ovviamente siamo in un contesto piccolo e quindi appunto si uniscono varie cose, anche una missione umanitaria a un certo punto di vista, che è quella appunto di riunire persone anche a volte sole in un momento felice, perché se avessi un messaggio diverso di certo non mi metterei a trovarmi tutti i lunedì sera in parrocchia a Gaggio per fare le prove di teatro. Quindi sappiamo che ogni settimana voi vi trovate per provare, a lunedì sera. Sì, sì. C'è la possibilità anche che qualcuno magari che magari ascolta questa trasmissione o viene a vedere appunto la vostra rappresentazione che è fissata appunto per febbraio sempre al teatro di Scorzè, c'è la possibilità che qualcuno si aggiunga alla vostra compagnia? Avete bisogno Noi di nuovi? Noi siamo sempre aperti a chiunque, anche perché c'è sempre qualcuno che o per un motivo lavorativo o perché ad esempio abbiamo un'attrice adesso che aspetta un bimbo, quindi la rappresentazione di febbraio la farà, poi nelle presentazioni a venire ovviamente non potrà esserci, certo. Quindi abbiamo cercato comunque una sostituta. Però io, quindi se qualcuno avesse l'interesse di venire, noi abbiamo sempre le porte no aperte, spalancate, anche perché non necessariamente uno deve recitare o stare sul palcoscenico, perché può fare costumi, può fare musiche, può fare scenografie, può ci anche sono semplicemente tanti fare ruoli. Assieme. Certo. Allora Rossella, chi ha scritto Il giorno più bello della mia vita e soprattutto qual è il tuo giorno più bello? Ops. Allora, ops, questa non era prevista, no. No, allora, vabbè, sono io l'autrice di questa commedia. Il giorno più bello della mia vita, come si usa dire da anni e anni, in teoria dovrebbe essere il matrimonio. Certo. Ed appunto la mia commedia, fatta di equivoci e fraintendimenti, è proprio rivolta, è proprio incentrata su un giorno del matrimonio, insomma, dei due protagonisti. Ho capito, quindi diciamo tutta diciamo l'opera verte appunto su questa giornata appunto specialissima per una coppia diciamo di futuri diciamo sposi. Rossella, sì. Una cosa che diresti per esempio a una persona che è un po' indecisa se partecipare o all'interno per esempio della propria comunità, sa che c'è una compagnia teatrale, a lei piacerebbe tanto però è un po' frenata da tante cose, qual è la bellezza fondamentale, la novità diciamo che tu trovi sempre nell'esperienza teatrale e che in qualche maniera ti dà sempre la carica per riprendere, ricominciare e impegnarti in questa, diciamo, in questa forma d'arte? Qual è la bellezza? È la voglia di mettersi in gioco, di scherzare, di non avere paure nell'indossare maschere, perché alla fine si può essere quello che veramente si è. Quindi il momento in cui ci si ritrova non è semplicemente interpretare un copione, è a volte mettere del proprio, è scherzare, è magari a volte capita che ci si trova e neanche si fa la prova perché ci si perde a chiacchierare, a far altro. Questo è il bello di avere un progetto comune, di condividere la stessa passione, ma al contempo anche di trovare un momento per divertirsi, anche perché lì nessuno mai ti giudicherà, perché ci sono attori ormai affermati, attori alle prime armi che hanno mai paura. Abbiamo un componente che ha incominciato l'anno scorso, veniva in un periodo difficile, sì. Ha cominciato e all'inizio parlava a voce bassa, non faceva neanche un po' di mimiche e tutto, adesso è padrone della scena, quindi insomma non abbiate paura che c'è posto per tutti ed è l'occasione anche per in qualche maniera dare un po' anche di una forma di realizzazione anche a livello umano diciamo a una persona, certo, che magari si sente un po' diciamo sempre un po' nascosto, un po' troppo timida eccetera, è un'occasione anche per essere protagonista ma divertire anche esatto, gli altri, esatto, allora, essere protagonista senza avere degli sguardi accusatori, esattamente, se non vedono credo, penso che il più bel messaggio di questo per partecipare diciamo e venire a vedere il vostro spettacolo calcolo che da calendario vedo che è fissato per l'11 di febbraio. L'11 febbraio, sì, e sì, la vostra compagnia teatrale si chiama proprio Se non vedo non credo. Allora ti chiedo l'ultima proprio cosa. Proprio come fine ultimo, perché bisogna venire a vederci per credere cosa si può fare. Allora vedremo e appunto vedremo anche di ricordare qual è stato il giorno più bello della nostra vita, appunto attraverso anche la vostra rappresentazione. Mio messaggio è proprio questo, che infine, ovviamente, come l'anticipavo ieri, anche seppur grottescamente, sono presenti tematiche abbastanza forti come il lavoro precario, i divorzi facili, la sindrome di Peter Pan l'attualità, e vari insomma. Altri fattori. E quindi, però, infine, in una commedia è sempre facile trovare un finale felice, perché chi tiene i figli delle marionette è la stessa persona. Nella vita non è così, e quindi sta proprio a ciascuno di noi trovare il nostro finale di felici e contenti, che penso sia l'obiettivo che chiunque dovrebbe porsi nella propria vita. Rossella, 30 secondi per dirci come si fa a contattare la vostra compagnia, per esempio per uno spettacolo in provincia di Padova o di Venezia. C'è qualche contatto? Allora, i miei contatti personali, che possono essere il numero di telefono, che non so se si può dire in linea, non lo che so. Quindi potete rivolgere direttamente alla segreteria di Noi Treviso e vi passeremo il numero di cellulare di Rossella Cavagni, esatto, per un possibile contatto. Esatto, e anche il contatto email, perché... Questo puoi dirlo, qual è? Ok, allora, Rossella, 2S2L. Sì. Punto Cavagnis. Sì. GNIS. Chiocciolina hotmail con l'h.it. Benissimo, Rossella, ti ringraziamo tanto per averci raccontato la vostra esperienza. Buona vacanza e ci vedremo ovviamente a Scorzella al Teatro Comunale per la vostra rappresentazione. Compagnia teatrale Se non vedo non credo, con Il giorno più bello della mia vita. Grazie ancora, Rossella, ciao. Arrivederci. Anna, hai sentito appunto che una delle commedie appunto che verranno presentate è stata scritta da una ragazza che ha 25 anni, cioè giovanissima, hai sentito anche la freschezza. Poi non è un caso, o forse lo è, perché adesso mi ricordo che anche tu hai avuto un'esperienza, hai tuttora un'esperienza teatrale, ma adesso è il momento della canzone, però poi racconterai in breve cosa hai fatto anche tu nel teatro, nel palcoscenico. Adesso la propongo io la seconda canzone, e allora ascoltiamo il nuovo singolo, il nuovo hit della nostra Elisa, che ricanta in inglese, riprova a cantare un album tutto in lingua inglese, anche per affermarsi nuovamente anche all'estero, e quindi ti dedico Some Time Ago. Grazie. Some time ago I was watching the leaves, lost in that world, in that life beneath the blue skin above my head. And some time ago I was fighting my pain, fighting to win just like it was a game. Stay any longer. time ago, qualche tempo fa, e dicevamo appunto prima di lanciare la canzone, prima che lanciassi la canzone, Anna, che anche tu hai avuto un'esperienza importante in palcoscenico, la stai avendo tuttora perché collabori appunto con una compagnia, state facendo un recital, ma mi dice anche la regia che siamo, diciamo, agli sgoccioli, quindi la settimana prossima non mancheremo appunto di raccontare l'esperienza teatrale di Anna Zampieri. Didi sì che è vero, perché sennò dicono che sto dicendo tutte quante le cose. No, tutto vero, confermo. Bene. Ecco, quindi Anna, terminata appunto questa puntata, ringraziamo allora Rossella Cavagnis, che è responsabile, referente della realtà appunto della commedia, della compagnia teatrale Se No Vedo No Credo di Gaggio Di Marcon, una delle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compagnie che sono le protagoniste della nona rassegna teatrale amatoriale di Noi Treviso, che partirà, ripeto ancora, sabato 21 gennaio, cioè adesso, e terminerà domenica 18 marzo, ogni sabato, Teatro Comunale Helios Aldò di Scorzè. Anna, siamo arrivati alla conclusione, ti saluto, ci rivediamo la prossima settimana, mi raccomando, stai sempre qua in studio, certo. Non tornare a casa, rimani sempre qua, fai compagnia alla regia di Eddie Dice, che salutiamo e ringraziamo. Non ci resta che augurarvi una buona settimana, una buona giornata, e sempre solo sulle frequenze di Blu Radio Veneto con il programma Fuori di Noi. Ciao a tutti! Ciao ciao! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.